si viene che russa come una sirota. Quando te facci e fai la buscarita, via tocca e ti do lo primo vado. Tra la porta tua lo sangue sporto, e non mi importa sì se muore sì. Oh!